E stasera cade come foglie la mia vita, e si perde sulla strada, mezza viva, un po' ferita, con i miei occhi bagnati al suono di una chitarra, mentre lento scivola a terra senza che me ne accorga. Parleranno ancora di me, di tutto quello che ho sbagliato, e rideranno delle mie storie o del mio passato. Senza chiedere scusa posso, anch'io ti ho conosciuto, e nell'angolo di un giorno ti ho lasciato. Sempre di tutti, ma occupandomi di me, di un ricordo, un amore finito, che adesso più non c'è, di quella sera passata a specchiarmi nel tuo sguardo, mentre il cielo si abbassava come un dolce canto. E adesso non ho più una tua carezza, un tuo bacio che mi chiama e che mi culla la tristezza, che si perde ogni mattina e non torna quasi mai, perché alla fine tutto muore e già lo sai. Un tuo bacio che mi chiama e che mi culla la tristezza, che si perde ogni mattina e non torna quasi mai, perché alla fine tutto muore e già lo sai, perché alla fine tutto muore. Perché alla fine tutto muore e già lo sai.